Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali e dal profitto al valore della condivisione. Intorno a questa svolta ruota la nuova era del marketing. Parola del guru di questa disciplina, padre del marketing moderno, Philip Kotler. Lo abbiamo incontrato e ci siamo fatti illuminare dalla sua visione. 15 minuti per lasciarsi catturare dalla bellezza italiana e quanto promette e mantiene Panorama, la video installazione realizzata a Milano in occasione di Expo, ma fuori dal sito espositivo, da una serie di realtà pubbliche e private che hanno condiviso l'obiettivo di valorizzare il Made in Italy. Siete stati contagiati anche voi dalla covermania? Le custodie per i nostri oggetti tecnologici di tutti i giorni sono il fenomeno di mercato e di costume del momento. Per la riflessione finale parleremo invece di nuovi equilibri tra tempo libero e tempo lavorativo per la costruzione della nostra identità sociale. Mai più senza. Per l'approfondimento di oggi abbiamo rispolverato lo stacchetto di una nostra rubrica di qualche anno fa. Volevamo sottolineare il valore anche simbolico per un programma che come il nostro si occupa di marketing e di comunicazione, il valore, dicevo, di un incontro e di un'intervista esclusiva a Philip Kotler, il guru del marketing di tutti i tempi, l'economista che lo ha definito come disciplina autonoma. Lo abbiamo incontrato a margine in occasione del Philip Kotler Marketing Forum e gli abbiamo chiesto, tra le altre cose, in cosa consista l'approccio umanistico che va sostenendo, che cosa ci dobbiamo aspettare dal marketing 3.0, com'è cambiato l'equilibrio tra bisogni e desideri in tempi di crisi. L'intervista è di Adriano Palazzolo. Well, in the old marketing style, the major point was just to make profits. Nel marketing vecchio stampo, l'unica cosa che contava era fare profitto. Una compagnia che faceva molto profitto veniva ammirata, ma poi questi profitti andavano solo ai proprietari e agli azionisti. Oggi invece cominciamo a pensare che le compagnie siano migliori se condividono i guadagni con gli impiegati, i fornitori e i distributori. Si chiama valore della condivisione. Sembra una sorta di responsabilità sociale, ma è più di questo. Perché crediamo che le compagnie che il pubblico percepisce come buone compagnie fidelizzino di più il cliente e facciano più profitto di quando vengono percepite come compagnie che pensano solo a fare soldi. Quindi questa è la rivoluzione del marketing 3.0? Il marketing all'inizio si basava sull'avere un prodotto e cercare di dimostrare che era migliore di uno stesso prodotto della concorrenza e che era più veloce e più affidabile. In seguito ci si è accorti che molti prodotti vengono scelti se contengono un elemento emozionale. Un buon esempio può essere il detersivo per la lavatrice. Tu puoi dire che il tuo detersivo pulisce meglio degli altri, ma funziona di più se nella pubblicità fai vedere un bambino, perché tutti vogliono che un bambino abbia vestiti ben puliti, e così via. E questo è lo stadio 2 del marketing. L'1.0 era il marketing funzionale, il 2.0 quello emozionale. Il marketing 3.0 è quando una compagnia dice: noi ci preoccupiamo anche del pianeta, vogliamo che stia bene, quindi non vogliamo creare inquinamento, non vogliamo danneggiare la terra, eccetera. Questo è il 3.0. In un periodo come questo, con una lunga crisi economica, come cambia l'equilibrio tra bisogno e desiderio, se è cambiato? Well, you know, marketing is normally for trying to satisfy existing needs that people have. Il marketing solitamente serve a soddisfare i bisogni esistenti delle persone, come mangiare, comprare vestiti, eccetera. Il marketing moderno, invece, serve a creare nuovi bisogni. Per esempio, nessuno ha bisogno di un Apple Watch, ma adesso la maggior parte di noi pensa che dovremmo averne uno. Quindi il marketing oggi percepisce i bisogni e li crea. Anzi, il business stesso diventa di successo nella misura in cui fa sì che noi vogliamo sempre di più. Perché come fai a fare soldi se non fai spendere alla gente sempre di più? In un certo senso dovremmo impedire al marketing di farci sentire il bisogno di volere così tante cose. Questa differenza come ha cambiato il modo di fare marketing? Ci sono così tanti tipi di consumatori, classe operaia, poveri, classe media, i ricchi, ognuno con la propria serie di desideri. E non solo, ci sono anche tanti tipi di stili di vita. In pratica, quello che fa il marketing è servire gli interessi di un gruppo di persone con lo stesso stile di vita. Se è un gruppo di persone che sta bene economicamente, nel loro stile di vita ci sarà bisogno di una villa, una barca, un elicottero. Se invece parliamo di classe operaia, ci chiediamo cosa andrebbe bene per lo stile di vita di queste persone, perché abbiamo tutta una serie di cose da potergli vendere. Qual è il ruolo dei social network quando si fa marketing? Social networks are crucial to the new marketing. I social network sono fondamentali per il marketing moderno. Ho visto personaggi, magari non conosciuti da tutti, ma che hanno migliaia di fan e di follower. Adesso nessuno conosce queste persone veramente, ma posso assicurare che se faccio comprare a questi personaggi il mio prodotto, e se loro ne parlano, allora le vendite si moltiplicheranno. Ad esempio, Lady Gaga avrà quanti? 40 milioni di fan? Se parlasse di un prodotto, le vendite avrebbero questi numeri. È importante enfatizzare la conoscenza di certi marchi. The awareness of certain brands. Il Philip Kotler Marketing Forum è stato occasione di confronto anche per altri esperti del settore come Mirko Pallera, CEO di Ninja Marketing, che ha presentato il marketing transpersonale, un marketing che miri a soddisfare bisogni profondi, universali. Ci siamo fatti spiegare come. Noi abbiamo parlato di un cambiamento di paradigma, qualcosa di molto ambizioso detta così. Si tratta proprio di cambiare il punto di vista da cui opera la disciplina, ovvero il marketing oggi non ha una visione chiara della psicologia umana. La psicologia transpersonale invece ci aiuta ad avere una mappa del territorio e ci dice che la coscienza umana nel corso del tempo evolve ed ora siamo a un momento in cui la coscienza arriva a diventare transpersonale. Cosa significa? Significa che arriva ad abbracciare non solo l'io individuale, ma anche ovviamente la cerchia delle persone intorno, quindi la famiglia, questo è scontato, la propria tribù, questi sono stadi che sono stati già attraversati, ma oggi arriva alle persone intorno, inteso come comunità, come società, come ambiente, fino ad arrivare al cosmo. Ecco, quindi questa nuova visione dell'uomo permette di aggiornare le pratiche del marketing e di pensare a un marketing che ha delle politiche di marketing, delle pratiche di marketing che tengano in considerazione non solo i bisogni individuali, ma i bisogni di un io allargato che appunto è transpersonale. Ecco, è una visione molto più etica, infatti voi citate concetti come condivisione, bene comune, è così, è corretto? Sì, è una visione più etica, però il cambiamento rispetto a quello che esiste già, no? Cioè la responsabilità sociale d'impresa è che questa dimensione etica non è più vista come dire, una necessità etica, no? Come un dovere etico, ma diventa un vero e proprio bisogno dell'individuo. E diventa anche un fattore competitivo per le imprese che l'abbracciano? Noi crediamo di sì, perché stiamo studiando tutta una serie di comportamenti e di pratiche delle aziende, tra l'altro anche Kotler ha annunciato al Philip Kotler Forum, no? La creazione di un indice per valutare le aziende. Ci sono vari esempi che dimostrano che le aziende che hanno un approccio transpersonale, ma possiamo anche definire un altro modo, un approccio etico, hanno dei migliori risultati in termini di business, perché lo spiegherebbe l'approccio transpersonale, perché di fatto vanno a rispondere meglio ai bisogni dei consumatori, o meglio gli ex consumatori, insomma adesso li chiamiamo diversamente, li chiamiamo creatori. L'arte degli italiani sta nella bellezza. Khalil Gibran. vi raccontiamo, cerchiamo di darvene un'idea, ma l'invito per tutti è quello di andarla a vedere. La videoinstallazione, una sorta di viaggio multisensoriale a 360 gradi, inaugurata in questi giorni a Milano in Piazza Gae Aulenti. Si chiama Panorama, è nata dalla collaborazione tra una serie di realtà pubbliche e private. Capofila la Fondazione Alta Gamma, consiste in un vero e proprio tuffo nella bellezza e nelle eccellenze italiane, dall'arte al paesaggio, passando per la manifattura, il cibo, l'hotelleria, la cultura. Grazie a una particolare tecnica immersiva, a un maxi schermo circolare e a riprese straordinarie effettuate con i droni, offre gratuitamente al visitatore una prospettiva e un'esperienza inedita, quasi da sindrome di Stendhal, sicuramente molto emozionante. Così ce l'ha raccontata Davide Rampello, ideatore e regista del progetto. La leggerezza del drone, la sua tra virgolette non invasività, ci ha permesso per esempio di entrare dentro all'Arenaria Reale, dentro a Capodimonte, dentro alla Galleria Borghese, nei teatri più straordinari, al Teatro Olimpico, alla Fenice, dal San Carlo alla Scala, permettendo una ripresa evidentemente in movimento, dinamica, ma anche diciamo con la possibilità di alzarsi, di muoversi. Tutto questo viene poi riproposto, proiettato a 360 gradi, per cui si è dentro immersi, ad esempio nel Colosseo si emerge e si contempla tutta Roma e poi si vola dentro i fori imperiali. Allora questo chiaramente dà al visitatore un'esperienza e un'emozione nuove, completamente nuove. È il racconto tra l'altro armonico dell'Italia delle piazze, dei paesaggi montani, dei paesaggi coltivati, delle vigne, l'Italia dell'alta tecnologia, della Ducati, della Ferrari, di Tecnogym, di Riva, ma l'Italia dei panettieri, l'Italia di chi cuce le scarpe, di chi taglia le stoffe, di chi tinge le stoffe, di chi poi confeziona l'alta moda che sappiamo, la meravigliosa moda che sappiamo, l'Italia dei falegnami, dei fabbri, perciò l'Italia poi del design, l'Italia dell'ospitalità, l'Italia dei grandi alberghi, delle dimore storiche del FAI che testimoniano poi tutto questo, perché uno entra in queste dimore e trova giardini, gli orti coltivati, la casa con le pareti affrescate, i mobili che sono frutto dell'abilità e dell'ingegno degli artigiani di un altro tempo, ma che sono gli stessi di oggi, ossia gli stessi nel senso che tutta l'abilità che abbiamo è frutto di questa memoria che si è sedimentata nel giro dei 3.000 anni. In che misura la bellezza, l'eccellenza italiana può essere un fattore identitario e anche di aggregazione? Beh, ma proprio perché se consideriamo la bellezza il frutto da un lato e la contemplazione del lavoro diciamo ideativo, progettuale, creativo dell'uomo, allora tutto questo diventa veramente diciamo il linguaggio che l'Italia deve praticare, perché è il linguaggio dell'Italia. Questi meravigliosi paesaggi sono frutto dell'esercizio di arti e mestieri, è un ciclo vitale che crea economia, che crea paesaggio, che crea evidentemente bellezza. Per realizzare il panorama sono state raccolte immagini in più di 200 location in tutta Italia per quasi 500 ore di girato condensate, pensate, in 15 minuti, tanto dura la proiezione. I droni utilizzati hanno volato in molti casi per la prima volta in alcuni tra i più bei posti del nostro paese. L'idea è quella di portare il progetto in giro per il mondo, ci ha detto Andrea Illi, presidente della Fondazione Alta Gamma. Il tema nutrire il pianeta, energia per la vita, non è solo cibo per il corpo, ma è anche, forse soprattutto, nutrimento per l'anima, che proprio la bellezza e la cultura italiana possono dare più di qualsiasi altra fonte. E quindi abbiamo cominciato a metterci al lavoro, abbiamo chiamato a raccolta tutti i nostri magnifici partner, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico, assieme a ICES IMES, il Comune di Milano, la Camera di Commercio di Milano, poi la Camera della Moda, Federlegno. E quindi è nato un progetto multi partner, unico nel suo genere, che mira da un lato a far conoscere in un condensato le quintessenze della bellezza e della cultura dell'Italia, soprattutto nei confronti degli stranieri, ma è anche un modo per sferzare l'orgoglio degli italiani, dell'italianità, l'amore per il proprio paese. Molti di noi siamo assuefatti e quindi inconsapevoli di quanta ricchezza e quanta bellezza c'è. Quindi un progetto da portare come biglietto da visita, come esperienza italiana, sicuramente nell'ambito delle missioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'estero, ma sono certo che ci saranno anche altri enti privati, partner di alta gamma e tutti che faranno una uso diffuso di questo strumento. C'è una nuova superstar nel mondo dei consumi, per molti è ormai un accessorio cult, griffato o low cost, artigianale oppure ipertecnologico. Ha a che fare con i 40 milioni di smartphone e i 10 milioni di tablet, pensate, presenti in Italia a fine 2015, ma il fenomeno è mondiale. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, parliamo di cover mania. Restate con noi. Essere e avere. Questo è il video in cui vi voglio mostrare la mia collezione di cover. Dovete sapere che io e la mia migliore amica abbiamo un po' una mania. Ciao a tutti, in questo video ho deciso di farvi vedere le mie cover per iPhone. C'è questa qui con scritto cioccolato. C'è una barretta di cioccolato. Hey kitties! So today I am going to be doing a super highly requested video, and that is my cell phone case collection video. Focus sui trend. C'è un oggetto, un accessorio che più di altri è entrato nella quotidianità di molti di noi, al centro di un fenomeno di mercato ma anche di costume. Stiamo parlando delle cover per smartphone e tablet, pretesto di personalizzazione per oggetti di per sé anonimi come appunto i telefonini. Nuovo accessorio da proporre per molte case di moda, intorno alle cover sono nate catene di negozi specializzati e molti concept store le mettono al centro del la loro offerta entry level, per così dire. È esplosa, insomma, quella che abbiamo battezzato come una vera e propria cover mania. Allora analizziamo il fenomeno con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina. Buon pomeriggio a tutti. Allora, fenomeno di mercato ma anche di costume, concordi? Ma direi che ci troviamo di fronte ad un fenomeno più che altro sociologico, poiché è ormai evidente che smartphone e tablet, come dici tu, non sono semplici accessori, ma estensioni del corpo, sono custodi di identità, depositari di contenuti vitali per la maggior parte di noi, ed è quindi normale che proteggerli, vestirli, renderli unici sia diventata pratica comune, quasi naturale, una nuova forma di rispecchiamento di stile, se vogliamo. Dimmi che cover hai e ti dirò chi sei. In un certo senso sì, la moda su questo ha costruito proprio settori merceologici nuovi. Ormai qualsiasi sito di grandi marche della moda ha la sezione tech dedicata interamente alle cover, ai rivestimenti sempre più glamour e di stile di questi oggetti, che sì sono anonimi ma appunto sono custodi di tutta la nostra memoria quotidiana. Ecco, iniziamo allora la nostra gallery. Ci sono brand che fanno più tendenza di altri? Sicuramente il lavoro di Jeremy Scott per Moschino ha eletto la cover come oggetto del desiderio, in prima battuta perché Jeremy Scott ha fatto un'operazione sulla moda che non aveva fatto nessun altro, cioè dal giorno della sfilata una parte della collezione era immediatamente disponibile in negozio, e guarda caso la cover, pensiamo alla prima collezione dedicata a McDonald's la cui cover era il cartoccio delle patatine, sono diventati dal giorno dopo oggetti visibili nelle strade e anche molto in qualche modo esposti. Moschino su questo ha costruito davvero una collezione straordinaria di oggetti, dallo specchio di Barbie al mitico orsetto, sono oggetti che escono dalle borse, che sono in qualche modo esibiti. Al di là di Moschino, moltissimi stilisti, pensiamo a Marc Jacobs, Stella McCartney propongono un'enorme vastità di cover sempre più glamour, sempre più anche con materiali ricchissimi, non solo plastica, non solo legno, ma tessuti meravigliosi, Swarovski, cioè c'è una creatività che si sta muovendo intorno a questo tema. Certo, perché c'è anche molta sperimentazione proprio sui materiali. Assolutamente, perché in effetti noi pensiamo c'è un'azienda nata nel 2006 da una stilista e un architetto che si sono messi insieme, che nasceva proprio come protezione di smartphone, tablet e laptop, che è Pigiama. Lavorava proprio con il neoprene, questo materiale protettivo, però rivestito da materiali sia tessili che proprio sperimentali, che lavoravano sulla decorazione e anche sulla protezione soft, no? Una coccola della nostra tecnologia, piuttosto che poi la sperimentazione. Pensiamo a Swarovski, che ha fatto tantissime collaborazioni in questo caso sulle cover, che rendevano prezioso, cioè per cui in qualche modo la cover, come dicevo all'inizio, diventa davvero uno specchio di stile, di una dichiarazione di identità. Anche per quanto riguarda la distribuzione c'è molta sperimentazione, perché si va dai siti più classici che vendono anche altri prodotti ai siti specializzati, dedicati, addirittura alle catene di negozi dedicati. Ma questo è un fenomeno veramente mondiale, nel senso che ci sono aziende francesi come The Case, mi viene in mente, che è diventato un marchio internazionale presente nella maggior parte dei mercati, che è una catena specializzata, e anche lì davvero non è un unico stile, ma la cover viene declinata in tutte le sue possibili manifestazioni, piuttosto che aziende coreane, cioè iFace, che è un'azienda coreana che propone cover tutte made in Corea, per cui anche con una dichiarazione non made in China ma made in Corea, per cui con una cura non solo estetica ma anche di qualità delle cover straordinaria, con dei negozi bellissimi anche lì in tutto l'Estremo Oriente, ma che man mano stanno arrivando anche da noi. È un fenomeno senz'altro mondiale. Come sempre postiamo tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook. Dicevamo, un oggetto che fa gola alle case di moda, ma non solo. Ad esempio, recentemente, me l'hai segnalato proprio in preparazione di questa puntata, anche IKEA è entrata nel settore. Ma pochissimi mesi fa IKEA ha annunciato questa importante collaborazione con un'azienda di wifi, proponendo una collezione di lampade e mobili che hanno la placchetta di ricarica, per cui un aspetto, se vogliamo, più funzionale, ma è interessante perché diventano gesti quotidiani, gesti naturali, come poggiare i nostri smartphone, i nostri tools sui mobili per ricaricarli automaticamente. Naturalmente ha dovuto e ha proposto oggi in negozio anche tutta una serie di cover che permettono questa funzionalità, ovviamente nello spirito e con i costi proposti dalla grande catena IKEA. La cover rientra in qualche modo in questo filone di riempirci di gadget, di questa sorta di gadgettizzazione, chiamiamola così, del quotidiano che attraversiamo? Ma senz'altro, anche se, come dicevo, secondo me il punto è che questi oggetti ormai sono parte del nostro corpo, cioè sono davvero delle estensioni. Infatti, lo dicevi anche tu, moltissimi department store dedicano il piano terra, che una volta era dedicato alla profumeria e alla cosmetica, a oggetti di questo tipo, a cover, piccoli tools per la tecnologia, perché in qualche modo diventa un modo di curare un'altra parte del nostro corpo, che è ormai rappresentata da questi oggetti, per cui è senz'altro il gadget è importante, ma soprattutto è il rispecchiamento stilistico di una parte di sé che continua ad essere molto potente. Grazie a Valentina Ventrelli, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio per la nostra riflessione finale alla ricerca delle parole chiave del marketing e della comunicazione il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Ben trovata a te e ai radioascoltatori. Il tema di oggi. Il tema di oggi è progetti di vita, perché è un modo per ragionare sul lavoro, è uno dei temi al centro anche del dibattito politico. Oggi il lavoro non è più necessariamente al centro dei progetti di vita delle persone, naturalmente le nostre vite sono plasmate dai nostri desideri, dalle passioni, e se queste possono essere espresse nel lavoro tanto meglio, ma molto spesso oggi le persone, anche i giovani, preferiscono ragionare in quello che un tempo era il tempo libero per investire sulle proprie passioni e i propri progetti, e il lavoro quindi è meno importante di un tempo. Come sempre ti chiedo una citazione, quindi libri, film sulle passioni, quindi siamo molto allineati in questo caso, è un caso aziendale, un esempio di campagna simbolo. Certo, allora Cannes, il Festival di Cannes ha proposto in questi giorni molti esempi. Ne cito uno meno conosciuto ma molto molto importante, è un film di Fernando León de Aranoa che è stato presentato alla Kansen, quindi non nella rassegna ufficiale, con Benicio del Toro e Tom Robbins, quindi grande cast, ed è la storia di queste persone che sono impegnate in una ONG in territori di guerra, e lì proprio capisci quanto il loro progetto di vita sia legato a questa passione nel conoscere le altre culture e nello sostenere. Il lavoro naturalmente poi è un problema che bisogna comunque risolvere in altro modo. Il caso aziendale, chi ha già interpretato questa visione? Ci sono molte aziende che hanno capito di dover intercettare non più solo i desideri di consumo ma i progetti di vita. Una fra tutte che usa proprio questa espressione progetti di vita, che è Veneta Cucine, e che propone ambienti di cucine che in realtà corrispondono ai desideri e ai bisogni di vita, e non solo alimentari o di presentazione dei pasti, dei vari protagonisti. Ci sono diverse generazioni e tutte propongono dei progetti di vita. In questo le giovani generazioni, tra attitudine all'imprenditorialità e quindi mondo startup e annessi e uso dei social, hanno molto da insegnare. Andrebbe fatta una mentorship al contrario nelle aziende in questo caso? In questo caso sì, le ricerche che noi abbiamo realizzato sulle giovani generazioni dimostrano che il posto fisso per loro non solo non è neanche più immaginabile, ma non è desiderato. Loro vogliono essere riconosciuti. È chiaro che il lavoro e l'investimento che fanno sulla loro professione è in una certa età al centro delle loro preoccupazioni, ma c'è moltissima più libertà e flessibilità che non è quella del lavoro come l'abbiamo intesa, quindi non è un obbligo ma diventa una scelta. C'è molta più intenzione in questi percorsi di vita che non sono più percorsi di carriera. Grazie Francesco, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie anche in regia a Peter Bescapè. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima alle 15, come sempre, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.